tempo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E bentornati a RadioTube, il nostro appuntamento che poi è la terza ora del sabato del villaggio, che ci fa riascoltare un po' il meglio e il peggio della settimana tra tutto quello che è andato in onda in televisione o è passato per la rete, del quale insomma si è parlato maggiormente e che ha fatto parlare tanto i social network. Vi ricordo subito i nostri account, che sono chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, l'hashtag RadioTube, e poi c'è il numero per i vostri SMS e per i vostri WhatsApp, che è 349-238-6666. Daniele, come dobbiamo iniziare però questa puntata di RadioTube? Diciamo intanto un po' con le scuse ai radioascoltatori, e per noi è una puntata veramente molto difficile. Vi vorremmo raccontare il silenzio che c'è in questo palazzo, perché oggi appunto ci ha lasciato il vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché. Ovviamente questa non è la trasmissione giusta, ci sono persone molto più autorevoli di noi che lo ricorderanno in altri spazi, e però appunto non è facile, che, è difficile. Ecco, l'unica cosa volevo chiedere ai telespettatori, se per oggi è più difficile per noi magari quel po' di simpatia che ogni tanto trasmettiamo in questa trasmissione sarà più difficile, sarà sicuramente più sofferta, e spero capiate. E niente, questo è un pomeriggio così, è un pomeriggio così, e andiamo avanti e portiamo a casa, come si suol dire, anche quest'ora di RadioTube, nella quale ci sarà spazio per molte notizie e anche qualche emozione. Tanta politica. Come sarebbe appunto piaciuta. Però partiamo con qualcosa che ci ha toccato il cuore, Daniele. Sì, partiamo così. We passed upon the stair, we spoke of what and when, although I was not there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Michael Stipe, che non si fa vedere tanto spesso, l'ex frontman dei REM o REM, è tornato in TV per ricordare David Bowie. Per cantare David Bowie con una voce stupenda, una barba ancora più bella. Sì, diciamo. Sì. Sembrava... Ormai devo dire che gli artisti americani, questa settimana anche David Letterman, quando... Anche lui la barba? Sì, no. Quando si lasciano un po' andare, decidono di abbandonare un po' le luci della ribalba, della ribalta, lunghe barbe bianche. Devo dire che... Ma ha cantato più canzoni, tutte bellissime, e... questo weekend sulla rete è proprio un'esplosione di ascoltare Michael Stipe. Questo weekend, due serate in ricordo di David Bowie, Patti Smith, Pixies, Cat Power, Debbie Harry, Cyndi Lauper, insomma, mancava. Però solo questa David interpretazione Bowie. Mi sembra veramente il top del top finora ascoltata, eh? Un uomo straordinario, Michael Stipe, grande grande amore, tanti cuoricini. Ma io, prima di dare la linea al giornale radio, ho parlato dell'ultimo fenomeno televisivo. Parliamo sì, spesso anche tanto che nel di radio. Sabato del villaggio ogni tanto c'era la voce, sembrava la Pausini. La Pausini, adesso l'abbiamo sentita per lanciare. Sì, Laura. Sì, Laura Pausini, perché ieri sera hashtag Laura e Paola, trasmissione televisiva con tanto appunto di tu hashtag. L'hai vista, ovviamente. Sì, ieri sera mi Io sono messa sul divano. House of Cards. Ah, tu guardavi House of Cards? Cioè, mi mandavi le mail dicendo Laura e Paola, però... Ah, perché vedevo che su Twitter tutti parlavano di Laura e Paola. Ah, però tu eri avvinto quindi, da House of Cards. Però io... Niente, ma sono andate bene, sono brave. Sono andate bene, sono brave e io a me preferisco sono Laura, piaciuti. Tu? Io preferisco Paola. Così, è un caso strano, non siamo d'accordo. No, vabbè, ma perché poi non ho mai avuto l'occasione di conoscere personalmente Laura Pausini, mentre ho avuto l'occasione di conoscere personalmente Paola Cortellesi, ed è... da parte mia coetanea, ma previsto tutte e due. Vorresti conoscere due, vabbè. Prossima esaudiremo. Volta. Sono andate bene. Sono andate televisivamente bene. Funzionano. Hanno battuto sul filo di lana Canale 5 con Ciao Darwin, perché c'era questa sfida. Tra l'altro c'era anche la sfida su Twitter, perché su Twitter sembrava più avanti Ciao Darwin, e quindi a un certo punto abbiamo detto vabbè, ma chi vincerà gli ascolti? Ha vinto di poco Laura e Paola. Ma cos'è successo? È successo qualcosa di interessante anche da raccontare a RadioTube. Tipo? Allora, social, c'entravano i social. Certo, perché Paola Cortellesi non ha mai avuto un account di Twitter. Paola Cortellesi non vuole avere niente a che fare con i social. E quindi... Convincila. No, l'ha convinta Laura Pausini. Vuoi sentire come? Sentiamo. Sentiamo. Allora, se me lo apri veramente... Dammi una password. 1, 2, 3, 4. Metti una password così. Se lo sta facendo veramente, mi arrabbio. E vi allora, dico che poi lo chiudo. Ve lo dico, lo chiudo. E non fai più lo show? E non è... No, poi chiuderò. No, ha detto che non fa più lo show. Peccato. Ciao Paola, hai aperto il... Scusa. Il social, dicevo, il social. Ah, scusate. Allora, innanzitutto hai dato 1, 2, 3, 4. Orrenda. Adesso mandiamo subito un tweet, okay? Va bene, mandiamo un tweet. Vai. Ciao a tutti. Non è mica audio, eh? Devi digitare, anzi ci sono 140 caratteri, devi scrivere. Ciao a tutti, sono Paola Cortellesi e ora sono su Twitter contro la mia volontà. Ancora? Adoro, ti ritwitto subito. E mi raccomando, seguite tutti Paola Cortellesi. Facciamo lo crescere tra poco, ve lo dico. Scusate, questo lo piccolo... fragile, indifeso account. Allora, ha aperto l'account in diretta. Adesso sì, c'è ancora. Allora, quanti follower ha? 20.500. Ieri sera facevo refresh. Sì, ieri sera facevo il refresh per vedere quanti. Saliva, ma proprio salivano di centinaia e centinaia. Scusami, tu apri un account e parti con un retweet della Pausini che avrà poi lo apri centinaia, in decine di migliaia, e poi lo apri in diretta su Rai 1. Esatto. Peraltro in Rai 1 si è parlato di Twitter. Sì, tra l'altro devo dirsi, poi l'account è nato già verificato, quindi diciamo che Twitter era già un po' d'accordo, però finta, va bene così. Era un po' finta. No, po' beh, finta no, però sai, i testi si scrivono. Quanti follower ha Laura Pausini? 2.191.000. 91 più di me. 91. E tra l'altro ha ribadito la sua gioiosa antipatia nei confronti dei social network. Ma Paola perché? Cortellesi. Niente, perché lei, il suo principio è una sorta di preferisco vivere. Vabbè, sì, vero, questo è vero. E allora si sono fatte un selfie, sì, e Paola dai. Cortellesi ha detto che bello, così lo stampo e lo metto in una cornice su una mensola. E la Pausini ha detto ma non si fa così con i selfie. Vabbè, però, scusami, qualche foto da stampare c'è ancora. Qualche foto da stampare c'è ancora, ma senti il consiglio della Pausini. Vai. Nella cornice a giorno. Ma sei pazza? Ma mettila su Instagram, su Facebook, nei social, no? No, io preferisco la cornice. Applauso pure per Instagram, così, a gratis. Voi ragazzi non è gratis, è perché io ho detto una cosa saggia. Oggi, ma come no. Oggi, tutte le persone non usano la cornice. Preferisco la cornice, resta a casa, sul comodino. Posso vederla anche tutti i giorni. La mostro ai miei amici quando mi vengono a trovare. Ma la puoi mostrare lo stesso ai tuoi amici, anche quando non ti vengono a trovare. Tu carichi una bellissima foto su Twitter, I tuoi amici la vengono a vedere magari, guarda, se adesso postiamo una bella foto su Twitter, magari ci diventa anche un trending topic. Dunque, il trending topic ti dà la possibilità di diventare l'argomento più popolare. Bene. Facciamo così, la cosa che si sta della quale si sta parlando di più in questo momento. Il trending topic, per esempio, del momento, in questo preciso momento, andate a guardare, è Laura è molto più brava di Paola. Ragazzi, occhio che sto trending topic te lo buco. Me lo buco. Bella questa, occhio che sto trending topic. Che tuo poi, buco. Io non avrei mai detto che Laura Pausini delle due fosse la più moderna, contemporanea. Sì, più... dici? No, no, no, no, Laura facevo Pausini. Più ragazza all'antica Laura Pausini e più Paola Cortellesi moderna. Invece no, vedi, a volte l'apparenza inganna. Allora, ci ritroviamo tra pochissimo, è il momento della viabilità e poi saremo ancora insieme con RadioTube. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. YouTube. E dopo questa parentesi dedicata un po' ai social, a quello che è successo ieri sera in diretta su Rai 1, e devo dire che così sono entrati, mi è fatto piacere che sia entrato Twitter anche in un programma che magari è visto da persone che non hanno idea alcuna di quello che sono i social network, e così Laura sì, Pasini ha spiegato cos'è un trending topic. Te l'ho detto, io mi aspettavo più la Cortellesi, vabbè, comunque vedi, sono no, invece sono la Pausini è molto molto così smaliziata. Anzi, ha fatto una bella lezione di Twitter, brava Laura Pausini. Allora, politica. Sì, parliamo di politica, di una storia che sta avvenendo molto sui social network. Sui social network. Una storia politica che vede come protagonista Marco Pannella, grande lottatore di mille battaglie, che su Facebook sta praticamente postando le foto e raccontando le visite di lavoro, le riunioni di lavoro che sta facendo a casa sua mentre sta, diciamo così, combattendo contro una malattia, mentre cerca appunto di curare questa fase il suo male. E su Twitter vengono raccontati, è andato, tu lo sai, è andato anche il Presidente del Consiglio a trovarlo. Anzi, abbiamo proprio l'audio del Presidente del Consiglio che esce da casa di Marco Pannella e commenta così. Credo che fosse giusto venire a scambiare due parole con un personaggio, una personalità del mondo della politica italiana così rilevante come Marco Pannella. Roberto Giachetti ci ha vissuto insieme stagioni importanti nell'esperienza del Partito Radicale. Io vengo, come sapete, da una cultura e da una storia diversa e tuttavia credo come istituzione che sia giusto e doveroso salutare e dialogare con un personaggio così, così significativo nella storia del nostro paese. Per chi ne ha appoggiato le idee, per chi le ha contrastate, tutti comunque condividono l'idea che Marco Pannella sia una grandissima personalità della storia politica italiana. Ci abbiamo scherzato, ci abbiamo parlato, abbiamo visto insieme e adesso lo lasciamo ai suoi incontri e al suo riposo. L'abbiamo visto comunque bello tonico. Bello tonico. Bello tonico, come era stato qualche tempo prima, dai, facciamo un sorriso perché Marco Pannella se lo merita sempre, parlando con l'amico Tommaso Labate, ecco qua. Vai. Solo una domanda, lei parlava di nonne, si parla qua di coppie e di figli, ma è vera la storia che lei avrebbe dei figli in giro per l'Italia, non riconosciuti? È vera, penso che ci siano dei fondamenti per poter affermare questo. Ma lei non ha mai avuto desiderio di saperlo o di andarli a conoscere? Se mi consente, questi sono cazzi miei. E così si fa. Cazzi miei, la parolaccia in TV. La parolaccia in TV, ne parleremo ancora di queste parolacce in TV. Daniele, mi raccontavi, perché tu sei sempre molto molto attento a questi temi, di come questa vicenda di Marco Pannella sia stata vissuta forse più sui social che sui mezzi tradizionali. Beh sì, sicuramente poi diciamo tra l'altro, in rete ma grazie appunto a Facebook, al fatto che vengono postate le foto di queste riunioni di lavoro, ovviamente anche diciamo il fatto che non abbia più partecipato alla trasmissione alla radio aveva acceso l'attenzione sullo stato di salute di Marco e quindi attraverso le foto delle sue riunioni si è visto andare avanti il giorno per giorno. Abbiamo qualcuno con cui commentare questa notizia e insomma tutto quello che sta accadendo attorno al combattivissimo Marco Pannella. Lo vuoi presentare tu, Daniele? Sì, è un giovane giornalista, giovane vice direttore del Foglio, esperto soprattutto di economia, geopolitica, ma soprattutto ha condotto ultimamente alcune conversazioni settimanali, le famosissime trasmissioni di Radio Radicali, con Marco Pannella. Lo abbiamo al telefono, Marco Valerio Loprete. Buonasera. Pronto. Buonasera, grazie a voi gli ascoltatori. Buonasera Marco, l'account, visto che ormai siamo in temi di account, è chiocciola Marco Valerio LP, che mi piace molto. LP, che perché molto ti pop. Ricorda il LP. Molto pop, sì. Allora Marco Valerio, raccontaci un po', da sempre no Marco Pannella mette un po' il suo corpo, la sua figura al centro di battaglie politiche. In questa fase sta avvenendo soprattutto su Facebook, sui social network. Raccontaci come la vedi. Sì, decisamente. In queste ore intanto ci sono state le visite, quelle di cui avete dato conto voi, come quella del Presidente del Consiglio, diciamo visite istituzionali, visite che suonano come un omaggio comunque a un pezzo della storia italiana e repubblicana. Poi ci sono state quelle che un giornalista, un collega, Pierluigi Battista, ha definito invece le visite, diciamo, dei rimorsi, cioè la casa di Pannella come punto d'approdo per tutti quelli che non hanno ascoltato Pannella in questi anni e che pensano di dovergli oggi, diciamo, prestare un tributo. E poi ci sono anche visite meno note, che però appunto i social ancora in queste ore se ne danno conto, come quella dovrebbe essere avvenuta oggi di Ennio Di Francesco, che è il commissario di polizia che arrestò Pannella nel 1975 per aver fumato in pubblico uno spinello. E questo commissario di polizia, oggi c'è una foto su Facebook appunto di Ennio Di Francesco con Marco Pannella, fu trasferito dopo 24 ore perché dopo aver arrestato il leader radicale gli mandò anche un bigliettino in carcere a Regina Coeli di solidarietà, perché quella ovviamente era una disobbedienza civile per denunciare una legge che non andava, e quindi anche lì mise in gioco il proprio corpo, fumando in quel caso uno spinello. Pannella ha sempre detto di aver fumato solo in quell'occasione, cioè per essere arrestato, ecco. A proposito di spinelli, io vorrei tornare indietro, 28 dicembre 1995, era in diretta con Alda De Usanio, Marco Pannella. Marco, io questo devo tra l'altro dire... è un regalino così, sì, che viene fuori, Marco, lo apri subito. Io devo dirti una cosa, sì, che tu sarai pure un tormentone nazionale, ma la tua passionalità è una cosa talmente travolgente. Spero che sia nutrita di intelligenza e di prudenza. Talmente travolgente, talmente importante, sì, perché hai cresciuto generazioni... Ma guardate che cosa mi ha dato! Ragazzi, questo quindi fa da male! Questo momento, questa è la morte dei ragazzi, fa male questo, l'assist! Facendo questo... Fa male, io questa compro. È morte! Ma vedi, è l'assist, bene che ragazzi, tu lo dici! Ma che mi fai? Ma perché è una tua convinzione! Ma è una cosa, ma lei, allora, comunque, in questo momento io compio un gesto e grazie, ma che ce non lo puoi Pannella, dare? Lasci. Ce l'hai tu! Stammi bene, ciao! Ce l'ha Pannella, si ce l'hai tu, stammi poverina, bene, poverina. Era il 28 dicembre 1995 il processo. Marco Pannella assolto in appello il 18 giugno 2001. No, beh, condurre sì, una trasmissione con Marco Pannella credo sia una delle cose più difficili in assoluto. Marco Valerio, tu che hai condotto una più conversazioni settimanali con lui, raccontaci qualcosa. Ma innanzitutto io ho fatto ovviamente il meno, la colonna di quella trasmissione, insieme a Marco Pannella è stato Massimo Bordin, poi c'è stato anche Walter Vecelli, io mi sono alternato negli ultimi 2 anni e è un format, quello della conversazione settimanale con Marco Pannella, che è un po' l'anti-social, almeno apparentemente l'anti-Twitter quantomeno, sia per la durata, sia per la forma, sia per i contenuti che assume, è una trasmissione di lunga 2 ore. Marco Pannella, diciamo, ha uno stile nella scrittura, ma anche nell'oralità, abbastanza barocco, difficile riassumerlo in 140 caratteri, e appunto queste 2 ore per anni sono andate in onda tra le 22 e le 24, tanto che Pannella la chiamava questa trasmissione scherzando un po' il buonanotte compagni. E poi anche la forma, perché il periodare di Pannella è complesso, diciamo... questo è piuttosto noto, e i contenuti non sono proprio quelli del commento a caldo sull'attualità, e quindi da una parte è stimolante ovviamente condurre una trasmissione del genere, dall'altra penso sia interessante per gli ascoltatori perché si parla continuamente per esempio di storia politica e anche molto di Prima Repubblica e ancor prima di Prima Repubblica, perché ovviamente Pannella calca diciamo il palcoscenico della politica ormai dal 1955, almeno da quando è stato fondato il Partito Radicale, e ancora prima con la politica giovanile, quindi è una conversazione che spazia nel tempo e nella storia, diciamo. Questo lo può rendere difficile anche per chi la conduce, oltre che per chi l'ascolta, perché Pannella ovviamente ne sa una più del diavolo, ecco. È anche un unicum quello che sta succedendo, perché appunto Pannella è un combattivo, ma è anche un uomo che sta combattendo una battaglia difficile. Quindi questo omaggio in vita di persone che magari hanno ancora molto da farsi dire da lui e farsi sta lavorando del resto, sta ancora lavorando. Sì, lui chiama assolutamente riunioni di lavoro, in buona parte lo sono, a volte sarà stanco, però ovviamente come dicevate voi all'inizio, anche questa centralità del corpo che rimane anche in questi giorni e in queste settimane di riunioni a casa di Pannella è un po' uno dei fili conduttori della politica radicale e di questo personaggio della storia italiana. Perché? Perché il corpo per Pannella non è solo oggetto, nemmeno solo oggetto della malattia o della cura contro la malattia, ma è sempre soggetto, individualità, e da qua appunto l'afflato libertario, individualista della storia e della storia radicale e delle politiche proposte da Marco Pannella. Quindi il corpo c'entra sempre, dall'aborto all'associazione, alla vicenda di Luca Coscioni, no? Con lo slogan dal corpo del malato al cuore della politica. Il corpo è obiettivamente sempre al centro della politica radicale, anche in maniera istrionica e divertente. Pensiamo al 1987 con l'elezione di Ilona Staller in Parlamento, no? Che era un modo per celebrare in fondo l'idea totale di liberazione del corpo, ecco. Marco Valerio, tu segui soprattutto i temi economici, noi sappiamo quasi tutto, insomma si sa dei radicali, battaglie sui temi dei diritti civili, raccontaci qualcosa del Pannella economico. Ah, sì, secondo me questo è un aspetto un pochino sottovalutato poi nel racconto mediatico, ma ci sono stati momenti effettivamente di originalità e anche di importanza su alcuni temi economici per la storia radicale. Uno sicuramente meno noto è quello del debito pubblico. Se si va a scavare nei resoconti parlamentari del 1980 si vede come la prima truppa di deputati radicali pose il problema di un debito che era già allora il doppio diciamo, rispetto a quello medio europeo. E addirittura mi sono andato a rivedere come un deputato, come Mellini, allora Crivellini pose il tema di azzerare il deficit, cioè praticamente volevano il fiscal compact, ma nel 1980. Altro che la Merkel, bastava... Sì, ecco, figurarsi come furono accolti nel momento in cui c'era un compromesso storico, comunque un'alleanza de facto tra Democrazia Cristiana e PC, e la spesa pubblica era uno dei modi per contrastare le tensioni sociali e tante altre cose, ecco. Beh, molto interessante questa vicenda, sono molto rapita, anche ci ha scritto il nostro amico traduttore Carlo da Latina, che dice: per tenersi in esercizio con la simultanea, talvolta ha tradotto proprio Pannella nelle sue conversazioni domenicali, difficilissimo ma sublime per contenuto e forma. Ah, beh, assolutamente, io quando dovevo imparare a scrivere con la macchina per scrivere, anche per fare l'esame da giornalista quando ai nostri tempi, sì, esatto, qualche annetto vecchietti fa lo faceva, ma lo prete l'ha già tanto, fatto col computer, secondo me. Come l'hai fatto tu, Marco? Sì, no, noi... dal 2010-2011 si è fatto con la macchina, quindi non siete tanto vecchi. No, infatti, mica tanto tempo. Io trascrivevo per imparare a scrivere velocemente, sentendo Radio Radicale e i comizi di Pannella, trascrivevo. Che poi lui è anche giornalista, lo dimostra nella capacità comunque di utilizzare i mezzi di comunicazione, Marco Valerio. Sì, è stato, lui lo dice sempre, inizia tutte le conferenze stampa sfottendoci, dicendo noi a cari colleghi. Perché lui è giornalista, è stato inviato a Parigi, se non sbaglio, per il giorno, e comunque obiettivamente poi nella sua storia ha avuto più modo di parlare che di scrivere, però ci sono alcuni suoi testi anche importanti, come una prefazione a un libro famoso di Valcarenghi, però ecco, sicuramente anch'io tra l'altro mi sono esercitato trascrivendo le conversazioni tra Pannella e Bordin, ho iniziato così, insomma, a fare il lavoro di giornalista. Ah, giusto, vero. Per l'archivio di Radio Radicale. Verissimo, adesso mi ricordo. Però, insomma, una concorrenza sì, molto molto particolare. Beh, bello aver avuto Marco Valerio Loprete, vice direttore del Foglio, giovanissimo giornalista. E Marco Valerio LP. Marco Valerio LP, mi piace. Grazie, mi piace questa cosa molto pop. Grazie agli ascoltatori anche. Buon lavoro Marco Valerio, io faccio anche un buon lavoro a Marco Pannella, visto che i suoi incontri di lavoro sono così importanti e così seguite. Noi ci ritroviamo tra poco, Daniele, perché parliamo ancora di politica, sai? Sei contento di parlare ancora di politica? Ma sì, dai, a tra poco. RadioTube. Rieccoci insieme, Daniele, @martacagnola, @dibellasio, @RadioTube. Parliamo ho preso di una multa. No, hai preso una multa. Ho preso una multa. Il pandino dove l'hai parcheggiato? No, ho sbagliato, ho girato dalla parte sbagliata. A Vimercate? No, a Milano. A Milano. Ho preso una multa, perché ma ho fatto... Cioè proprio c'era lì il vigile con la paletta? No, c'era la telecamera, ho preso una multa. Ha fatto flash. Pensavo fosse di 90 euro, invece fortunatamente pagandola subito erano 70 euro. Punti? Però... I punti? No, nessun punto. Nessun punto. Però siccome ho chiesto a mio papà se me la pagava lui, gli ho dato i soldi, mi ha detto guarda erano solo 70, ma gli altri 20 li tengo per il disturbo, sono andata a fare la spesa. Ah, quindi era uguale a 90. Era uguale a 90, però no, almeno no, povero, i punti restano uguali. La spesa. Punti restano mi voleva prendere un po' in giro. Troppe ste multe, eh? Basta, queste multe. Fatte per pagare per le cose. Si è lamentata la Gelmini. Sì, no, beh, è un tema ostico da affrontare in campagna elettorale, no? Le multe sono un tema interessante. E sì. Maria Stella Gelmini, che è candidata al consiglio comunale. Non ci sono già le liste, sì, ma comunque sarà candidata a Milano. Sì, che poi non capisco perché sta a Roma, Milano, non lo so, poi mi spiegherai più avanti o non ne parleremo per non cadere nella par condicio che, sì, che ci già stavolta stiamo attenti, prendiamo in giro un pochino chiunque. No, però un po' di ragione ce l'hai, che i comuni con le multe, no, certo, ripianino che facciano cassa con le multe, si sa, e lei si è lamentata così. Così. Si sono stati tartassati da Pisapia in vari modi. 770 milioni di tasse in più in 5 anni e poi 10.000 multe al giorno. Tutto questo è inaccettabile. Queste multe servono solo per riempire le casse comunali a scapito dei milanesi. Noi vogliamo un traffico fluidificato e gli autovelox solo dove c'è veramente bisogno, non multe per fare cassa a danno dei milanesi. Allora, cosa è successo? Che sì. Lei ha postato questo video sui suoi social, l'ha postato su Twitter, ma apriti cielo, ironia, la gente l'ha criticata perché lei ha girato questo video con una multa in mano in una strada piena dietro, di macchine, sì, tutte in divieto di sosta. Compreso un pandino arancione. No, io sui divieti di sosta sto abbastanza attenta. Ma erano proprio divieti quelli lì, perché non si è capito bene. No, lei ha detto che l'ha fatto apposta per mostrare che i milanesi parcheggiano dove possono. Sì, bisogna stare attenti, con i video bisogna stare molto attenti. Succede sempre dietro, Cosa è successo ancora? È successo che invece Renato Brunetta a Radio Cusano Campus ha raccontato un altro tipo di disavventura. Quale? Dopo 2-3 anni ti arriva un bollettone di 10-15 mila euro. È arrivato anche a lei, professore, il bollettone? Assolutamente sì, mi è venuto un mezzo collasso, dati i tempi. Da quanto era? Da quanto e mi pare curioso. Fosse 14 mila euro. Una bolletta della luce da 14 mila euro? Perché casa, questo, giardino, illuminazione e così via. Certo. E fai presto a fare bollette bimestrali, senza esazione, nessuno ti chiede nulla, tu ovviamente non paghi o paghi 2 anni prima, eccetera, eccetera, fai presto a fare i conti. Beh, 14.000 euro, ragazzi, viene veramente un colpo. Dai, per andare un po' a destra e a sinistra, sentiamo invece cosa ha detto Ignazio Marino. Eccolo qua. Allora, Ignazio Marino che ha presentato il suo libro Un marziano a Roma, ha sbancato i social. Sì, dalle bollette. Dalle bollette agli scontrini. Io ho tutte le mie stesi rappresentanze, le ho messe sul sito, non mi pare che il capo del governo abbia fatto lo stesso per i suoi scontrini quando era a Firenze, e invito tutti i sindaci d'Italia a fare la stessa cosa che ho fatto io. E beh, insomma, questa settimana ci si è scatenati tanto. Però tra vedi, presenze non sono... sui social, poi sì, social sui social impazziti. Non sono più i talk show. Non ci sono più i talk show di una volta. Cioè tu vedi questi non ci sono più, soprattutto quelli politici, argomento che noi tiriamo ma fuori. Ma sarà vero? Io non lo so se è vero. Io ne parlerei. Con un esperto, già ride. No. Dopo no, spieghiamo non perché sorride. Dopo, alla fine, Daniele Bellasio, spieghiamo perché voi non lo vedete alla radio, ma lo sguardo sornione di Daniele Bellasio che io conosco bene. Ne parliamo con un esperto, anzi l'esperto, fatemi usare esperto con la E maiuscola, con il professor Giorgio Simonelli, docente di storia della radio e della televisione dell'Università Cattolica di Milano. Buonasera professore. Buonasera. Allora, buonasera a tutti. Dico subito una cosa professore, posso dire io una cosa? Dilla. Ma perché ride lì il suo partner? Ride perché C'è una vecchia diatriba. Lei deve sapere, professore, che ogni volta che noi parliamo di un argomento che più o meno c'entra con la televisione, Marta Cagnola sostiene di aver fatto la tesi su quell'argomento lì. Solo che ogni volta cambia. Siccome mi risulterebbe... No, ma io posso confermare che ha fatto una sola tesi su un solo argomento. Allora, lei era il professore? A meno che ne abbia fatte altre con altri. No, no, una tesi solo un unico professore. Per me c'è solo il professor Simonelli. Allora, lei era il professore della tesi e la tesi era su? Allora, la tesi era sul talk culturale francese. Ah, oh, l'abbiamo quindi detto. Il mistero è svelato l'abbiamo una volta. Per... Non puoi più venderti altre tesi fatte. Ho anche postato la foto del frontespizio della mia tesi e mi sono laureata il 2 aprile 1997, quindi oggi fanno 19 anni, prof. Un sacco di tempo. Diciamo una banalità, come passa il tempo? Ma lo diciamo sempre, come passa il tempo quando ci si diverte? È più vivo il talk show culturale della TV francese o il talk show politico della TV italiana? È facile, il talk show politico della TV italiana è in agonia, è una lunga agonia che dura ormai da almeno 3 stagioni, diciamo che viene tenuto in vita così con un accanimento terapeutico, come si dice, per interessi abbastanza evidenti, anche abbastanza banali, ma insomma il talk show politico tra l'altro si sta trasformando sotto i nostri occhi, nel senso che i talk più, come dire, più attenti, ecco, che vogliono davvero vivere e non sopravvivere, stanno cambiando almeno i temi, ecco, vanno su temi, come dire, più di cittadinanza, più di vita quotidiana, il cibo, l'aria, quella che è la vita dei cittadini, piuttosto che le alchimie dei rapporti politici che invece infiammavano gli animi fino a qualche anno fa. A un certo punto si erano moltiplicati i talk show perché facevano un bel ascolto, non sono costosissimi, ecco. I personaggi da invitare non mancano, però mi sembra sempre che la somma faccia il totale, cioè alla fine se sommi gli ascolti, se ce n'è uno, due o tre, i fan dei talk show rimangono sempre gli stessi? I fan rimangono sempre gli stessi, anzi i fan dei talk politici sono in calo anche come totale, anche perché... Non solo la somma fa il totale, ma il problema è che forse qualcuno finalmente si è accorto che la formula che io chiamo agonistica del talk, invece che sommare, azzera sempre, sì. Nel senso che si ascolta l'opinione, ammesso che si tratti di opinioni, chiamiamole così per generosità, si ascolta una posizione, si ascolta la posizione opposta, alla fine però la somma fa zero, nel senso che nessuno riesce a portare, quindi, delle argomentazioni convincenti, delle argomentazioni veramente forti, veramente delle argomentazioni profonde, poi li chiamano di approfondimento, ma in realtà è semplicemente un agone, un'arena, ecco, in cui il gioco è a chi è più bravo dialetticamente, a chi buca più il video, e in cui, insomma, adesso si dice, si urla, ma non è neanche quello il fatto, anche se non si urla, anche quando si sta con il tono giusto, però in realtà ci si limita a contrastare, faccio l'avversario non con delle argomentazioni ma con delle battute, le famose faccine, sì. No? Le famose... E inoltre anche quelli che portano i dati, ormai insomma si è scoperto che il re è nudo, che i dati, o dici io qua ho una tabella di dati, ma poi il problema è l'interpretazione dei dati, tutti i dati sono confutabili, quando si è accorto che anche i numeri più semplici, sono confutabili. E poi in Italia... Pensate al problema dell'occupazione, sono veri occupati o sono finti occupati? Uno dice sì, ci sono 500.000 nuovi occupati, l'altro dice sì, ma quei 500.000 nuovi occupati in realtà 490.000 erano già occupati e ne avete occupati solo 10. Allora di fronte a queste cose, devo dire che saggiamente, è una dei pochi prove di saggezza della popolazione televisiva italiana, qualcuno ha detto, beh, ma allora questi qui ci stanno un po' prendendo in giro, allora preferisco guardare Don Matteo, ecco. No? Ecco, ma professore, come si potrebbe innovare un po' la formula? Vede in giro barlumi di innovazione, tentativi? Guardi, sulla... Io sono un conservatore in televisione, credo che l'unico talk, qui mi lancio, tanto si può fare nomi e cognomi, l'unico talk che abbia un senso, insomma, e riesca ad apportare un po' di conoscenza, è quello di Lilli Gruber sulla 7 delle 8 e mezzo, perché Per un motivo molto semplice, lì gli ospiti sono pochi ed essendo pochi c'è spazio per qualche argomentazione in più, qualche discorso di approfondimento in più. Devo dire che ultimamente anche lì si sta un po' sbracando, insomma, perché ho visto ultime puntate, ci sono personaggi incontenibili, uno ne avete appena parlato voi poco fa, Marino, che ha scelto la strada proprio dell'eccesso nell'ultima ospitata, però generalmente lì si riesce a contenere, perché è una cosa molto semplice, il problema è il numero dei, giustissimo. C'è una frase meravigliosa di quello che è stato il più grande critico televisivo italiano, Beniamino Placido, che una volta fece, parlando del Maurizio Costanzo Show e di una crisi del Maurizio Costanzo Show, fece un discorso di etologia, dicendo: sapete perché i pesci viaggiano in branco? Gli etologi dicono che i pesci viaggiano in branco perché quando c'è un predatore, un uomo o altro pesce, nel momento in cui deve scegliere qual è la sua vittima del branco, gli altri scappano. Mm. Nel talk è la stessa cosa, più gente c'è e più riescono a sfuggire alle domande. Giusto. A me sembra che sia perfetto, Beniamino Placido era evidentemente un grande, quindi lo citiamo, ecco, perché è questa la dinamica, più gente c'è, come si diceva una volta, no? e meno cose si capiscono. A 8:30 c'è poca gente, quindi è possibile che qualche volta si capisca qualcosa. Professore, ti chiediamo ancora qualche minuto, se può rimanere piacere. Con noi, facciamo una brevissima pausa, perché piacere. Siccome so che tu, oltre ad aver frequentato molto Radio 24, l'ascolti anche, adesso c'è il momento della viabilità. Ci ritroviamo insieme tra pochissimo. Pantera millesimato, l'IRP di Infracom Italia per le aziende vitivinicole, sempre col TH. Vi presenta... YouTube. E rieccoci insieme con RadioTube. Stavo leggendo un po' di vostri messaggi, alcuni molto moderati, che io ora mi pregerò di leggervi al 349-238-6666. Come stranamente parli? Non firmati, nessuno dei due è firmato. Passi per l'ignorante Cagnola, grazie. Ma l'ho preso anch'io oggi. Ma tu, Bellasio, ti facevo intellettualmente più onesto. Io sono ignorante, però tu sei anche un po' disonesto, perché non abbiamo parlato di Guidi Boschi, cioè ci siamo occupati di Pannella per non parlare di Guidi Boschi. Guidi Boschi ne parlano tutti da giorni. Infatti. Ma poi non è che ci sono dei video da non è sui social che sta avvenendo. Magari ne parleremo, ma non abbiamo preclusioni ideologiche. Guidi e Boschi, poi... no, ricordiamo il ministro dello sviluppo economico che si è dimesso per le intercettazioni che riguardano. Una notizia data non era un paletto, no, ideologico. Abbiamo fatto... Diciamo che non è proprio un tema core di RadioTube le inchieste giudiziarie, però magari ne è. E poi comunque c'è anche chi ci scrive che l'unica innovazione che sicuramente risolverebbe il problema, sparare nella tempia a destra o sinistra, ma meglio la sinistra di ciascun giornalista. Però sono mancina, quindi non so. No, non scherziamo quindi su queste cose, perché è meglio. Allora, ecco, però preferisco leggerli, perché siccome a volte... No, è giusto, il messaggio è molto giusto. Arriva anonimo, però ecco, non è bello per gli sms. No, torniamo però, scherzi amari a parte. Alessandro da Pistoia scrive un WhatsApp molto interessante, perché è una provocazione, secondo me, da cogliere e da accogliere. E lo chiedo anche al professor Simonelli, che è ancora in collegamento con noi, ricordo, docente di storia della radio e della televisione all'Università Cattolica di Milano. I talk show sono finiti perché è sparito Berlusconi, dice Alessandro da Pistoia. Il cambiamento della generazione. Ecco, professor Simonelli, posso chiosare la tua domanda dicendo: ma com'è che quando c'era pro o contro Berlusconi i talk show funzionavano, ora che è pro o contro Renzi i talk show funzionano o meno? Io ho questa sensazione. Professor Simonelli. Dunque, due cose. Intanto, non è il problema, cioè è il problema Berlusconi, però Berlusconi è vissuto in un sistema fortemente bipolarizzato. Renzi vive in un sistema che non è più bipolare, no? Non è più quel sistema lì, e quindi è più complesso. E siccome il talk show ha assunto una struttura agonistica, uno contro uno, una parte contro un'altra, è molto facile rappresentare quando sono due le parti, quando sono tre o più le parti diventa più difficile, perché bisogna dare voce ad una diversificazione di linee che il talk show non riesce a gestire. Poi c'è un fatto, sicuramente il governo Berlusconi, quell'epoca lì, è stata un'epoca che ha infiammato gli animi degli italiani molto più di quanto accada oggi con Renzi, che raccoglie invece un consenso, come dire, non dico più vasto, ma comunque più variegato, mentre Berlusconi era muro contro muro, insomma, no? Quindi insomma, non credo che dipenda da una antipatia o simpatia, dipende proprio dalla struttura del talk, che si adegua meglio ad un clima politico che è passato. Inoltre, insomma, io sono convinto anche di un'altra cosa, che il talk show è molto seguito dagli spettatori che si identificano nell'opposizione al governo in carica. È un luogo, come qualsiasi governo sia. Non è un caso, no, che se voi avete notato, quando governava Berlusconi fiorivano i talk di sinistra, di centro-sinistra, no? È stato il momento magico di Santoro. Sì. Adesso i talk veramente che hanno qualche successo sono talk tendenzialmente di centrodestra, se non decisamente di destra. Ma perché è un po' un meccanismo, come dire, psicologico. Chi si sente emarginato dalla politica si rifugia nel talk, di, come dire, adesso loro governano ma io gliene dico qua. Beh, per certi versi, dal punto di vista del giornalismo sarebbe anche giusto fosse così, sì, perché sembra un po' un controbilanciare. Un controbilanciare il potere, sì. No, non è... Se però questo giornalismo facesse veramente il giornalismo invece che inscenare così un teatrino che va avanti da anni. Infatti c'è un ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive sempre al 349-238-6666. Secondo me un grosso problema dei talk show politici sono i conduttori. Me ne trovi uno in Italia che faccia domande secche come quello americano che ha intervistato Trump. Cosa pensi dei conduttori dei nostri talk show? Hai già espresso apprezzamento per la formula di Lilli Gruber? No, penso però l'ascoltatore che ha scritto sta confondendo il talk con l'intervista, perché quelle formule lì possono avvenire nell'intervista, cioè il giornalista che incalza il politico e lo mette alle strette avviene più nell'ambito dell'intervista, nel faccia a faccia, che non nel talk. Poi su questo, insomma, io non credo che i conduttori di talk siano pessimi giornalisti, anzi direi che poi tutti... Mi sembrano bravi, posso cavarmela con una battuta, io a volte mi chiedo, no, ma me lo chiedo veramente, ma Floris, che quando io sento come ospite, o Giannini, che quando io vedo come ospite, sono bravissimi, sono brillantissimi, sono Floris, poi è uno che dice sempre delle cose di straordinaria intelligenza, sì, quando è ospite a sua volta di qualche programma, ma chi glielo fa fare di sentire invece tutte le stupidaggini che è costretto a sentire da parte dei politici? E vabbè, perché lì sei un po' padrone di casa, no? Sì, però è un padrone di casa, ma lei avrebbe voglia di avere per casa tutta sta gente che dice un sacco di scemenze, che alza la voce, no? Uno dice, ma andate via, ma vengo io a casa di qualcun altro a fare bella figura. Ma poi l'audience scala e quello si preoccupa. Sì, però veramente... No, capisco il problema. Punto. Non sono i conduttori, ma i conduttori sono bravi. Floris è bravo, Giannini è bravo. Il problema è che proprio la formula, bisognerebbe avere il coraggio di dire, ragazzi, mettiamoci tutti attorno a un tavolo e troviamo qualcos'altro. Mi piace il WhatsApp che ci ha mandato in questo momento Luca da Roma. In Italia il talk è l'alibi di un'intervista. Non è male, non è male. Luca, me lo rivendo perché non è male. Non è male. Non è male. Allora, io adesso vorrei solleticare un'altra passione del professor Simonelli, che è lo sport. Sì. E ascoltiamo un secondo di quello che è successo. È sempre TV, tra l'altro. È sempre TV. Durante, mi dicono, la cronaca d'Italia-Germania. Contestato da Trindolz. Montolivo, Tiago Monta, che palla viene recuperato il pallone. Tercero Montolivo, poi prima, il movimento di profondità di Al-Sharawi. Intervento di Mustafi. Ho sentito, ma porca... Ma non si è sentito poi così. Non si è sentito tanto. Pare che tra pattoni si sia lasciato andare a qualche intemperanza. Come in panchina. Sì. Commenta come in panchina. Ecco. Professore, la RAI è in una fase di annunciato rinnovamento. Sì. Rinnovamento che passa anche per lo sport, e anche qui c'è stata la polemica sul fatto che sarebbe stato cacciato, tra virgolette. Io non ho capito bene, perché secondo me non è ancora stato cacciato. Tra pattoni per queste intemperanze. Poi lui ha risposto a Radio 24. E come sempre Radio 24 fa molta notizia. Il rinnovamento della RAI, che parte ad esempio dallo sport. Romagnoli ha detto più epica, più racconto. Ma da dove si può partire per rinnovare la RAI in fatto di sport, ma non solo? Tu che così non chiedo la formula magica, ma la lista della spesa, qual è la prima cosa che metti? La prima cosa che metto, intanto mi sembra è una cosa che è stata fatta, la prima cosa per la RAI è avere gli eventi, perché il problema dello sport è o hai gli eventi da mostrare o non li hai, e se non li hai succede anche qualcosa, che poi vai un po' fuori allenamento, come dire, la RAI ha un problema nei confronti del calcio, perché di calcio ne può trasmettere poco, si può trasmettere solo la nazionale. E quindi non ha la quotidianità, la settimanalità, insomma, fare lo sport. Quindi il primo passo, secondo me molto molto importante, è stato l'acquisto dei diritti delle Olimpiadi, perché è la prima cosa. Certo. Sì. E anche degli europei, sia pure il parziale. Poi mi sembra che ci sia un progetto molto ambizioso, e questo vedremo come va, di svecchiare, nel senso di affidare la direzione del sportivo di Rai Sport non ha un giornalista soltanto sportivo, ma un uomo che ama lo sport, ma che fa nella vita altre cose, e che, se non so se l'avete notato, io ho cercato di sottolinearlo, di tutte le nomine che sono state fatte in Rai è la nomina più sorprendente, più rischiosa, ma anche, come dire, più coraggiosa, cioè uscire dal tran tran normale delle nomine e chiamare una persona che non c'entra nulla con quel mondo lì, che finora non c'entra nulla con le beghe, con i rapporti, con il sottobosco della RAI, ma che ha una visione dello sport molto intelligente, molto interessante, che più che avvicinarsi al giornalista sportivo normale si avvicina, insomma, alla grande tradizione dei grandi narratori sportivi. Ripeto, è una scommessa, vediamo se riescono a vincerla, però in questo bisogna riconoscere alla RAI un certo coraggio. Ecco, ma invece il settore, quello di, insomma, per capirci, Montalbano, Don Matteo, adesso arriva Gigi Proietti, mi pare. Le fiction, quelle che magari, diciamo, sotto i 40 anni fanno storcere il naso, però hanno un pubblico straordinario. Montalbano, per esempio, è anche bellissimo, quindi non ha età. Quello lì è un settore su cui la RAI può in qualche modo cercare di investire per il proprio futuro, oppure è solo difensivo nei confronti delle serie, insomma, delle TV satellitari, per capirci? Dunque, io sono in generale contrario a parlare della fiction italiana come di una cosa compatta, no? Dico sempre che quando si dice la fiction italiana è come dire i vini italiani, e i vini italiani vanno dal Barolo di Annata, no? Fino al vino che si compra nel cartone. Ecco, quindi è come dire, non si può parlare in toto della fiction italiana. La fiction italiana ha delle punte di eccellenza, secondo me, e delle routine anche molto basse. E credo che si debba investire assolutamente non solo denari, ma anche energie intellettuali e culturali, non soltanto, non per contrastare la fiction americana, che sicuramente oggi spopola, soprattutto a livello qualitativo più che quantitativo, nel senso che sono prodotti che vengono visti da un numero molto ristretto di persone, però poi se ne parla moltissimo. Certo. Sì. Credo però che non può esistere un servizio pubblico, non può esistere una televisione, e in particolare non può esistere un servizio pubblico che non si preoccupi di raccontare delle storie. Perché la funzione fabulatoria è fondamentale. Bisogna saper raccontare delle storie. Questo vale anche per sono i giornalisti. Sono d'accordo, mi piace come ricetta. Sì. Grazie al professor Simonelli grazie. Per essere stato con grazie noi. Soprattutto grazie soprattutto per aver svelato il mistero della tesi, perché tutti noi eravamo avvinti. E dica alla Cagnola di non vantarsi di altre. Non avrai altre tesi all'infuori della mia. Esatto. Ecco, e con questo. Grazie, a presto al professor Simonelli. Grazie agli ascoltatori che sono stati con noi per questa puntata di Radio Tube. Daniele, al prossimo sabato ci ritroviamo. Grazie a Cristian Goldoni. Grazie. Questa volta con noi anche Guido Scotti, grazie a Valeria Bernardi in regia. Ci ritroviamo il prossimo sabato alle 15 col Sabato del Villaggio, alle 18 con Radio Tube. Ciao.